Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, come ogni domenica, come Basket comanda, anche quando non c'è il campionato, squadra di Radio 24 al completo, con Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Oggi All-Star Game di Biella, subito il risultato, 107-92 per l'Italia contro le Beko All-Star, contro la selezione dei migliori stranieri del campionato. Voleva essere soprattutto una festa, e festa è stata. La Nazionale del Monte ha fatto vedere anche qualcosa di bello, ma fra poco ne parliamo subito col nostro primo ospite, perché avete sentito durante A Tempo di Sport con Giovanni Capuano, ospite Franck Vitucci dall'alto del primo posto in classifica con la sua Varese. Qui a Palla Spicchi non potevamo essere da meno, e allora scendiamo giusto il necessario di un gradino. Benvenuto Meo Sacchetti, coach di quella Sassari che è seconda in classifica e che continua a stupire. Bentrovato coach. Buonasera a voi. Allora coach, partiamo proprio da questo All-Star Game. Chiaramente valori tecnici approssimativi, ma direi soprattutto grande festa del basket, e di queste feste c'è sempre bisogno perché il basket ritrova il suo popolo, no? Sì. Ve lo dico onestamente, però non ho visto la partita perché ero a vedere Castelletto. Sì. Serie B dove ho giocato, dove ho allenato, allora sono andato. Perciò non vi posso dare questo spunto, certo, sul cosa tecnico o non tecnico della partita. Ho saputo che hanno vinto contro i giocatori americani, perciò ci può essere sicuramente qualcosa di stimolante. Lo stimolo dei giocatori italiani sicuramente è stato diverso da quello degli stranieri, presumo. Assolutamente, c'è sempre sempre una buona occasione per mettersi in luce. Certo, però potranno chiamare anche lei per il tiro, per la gara del tiro da tre punti, no, perché a memoria non se la cavava poi malissimo. No, non era il mio mestiere. Ogni tanto quando c'avevo un po' di spazio qualcosa facevo, ma non era il mio mestiere quello del tiro da tre. Senta coach, pausa che serve anche per tirare il fiato dopo 11 giornate intensissime. Lei stesso aveva detto, siamo partiti bene, ma vediamo dove saremo dopo una decina di giornate. La prova del 9 è stata vinta, siete ancora ad altissima quota e con tutte le intenzioni di rimanerci. Come sviluppare questo secondo terzo di stagione per centrare questo obiettivo? Sicuramente noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto e abbiamo bisogno di poterci allenare un pochettino di più per eliminare un po' i nostri difetti che si sono evidenziati anche in questo sprazzo. Sicuramente vogliamo aumentare un pochettino la nostra presenza anche in difesa, che è un po' il nostro tallone sotto questo aspetto, e mantenere questa nostra freschezza e lucidità mentale in attacco. Peccato per l'eliminazione dall'Eurocup, perché è un impegno europeo che avete preso seriamente. Qualcuno aveva ipotizzato che tutto sommato l'avreste gestito come un impaccio, così non è stato, anche se poi è arrivata questa eliminazione dolorosa. Sicuramente no, perché l'abbiamo fatto con un bello spirito, sapevamo che ci costava fatica sotto l'aspetto dei viaggi, neanche tanto sotto l'aspetto della fatica della partita. Probabilmente ci ha bruciato un po' di energie nervose sull'ultima partita, è stata sicuramente siamo molto dispiaciuti di questo qua, perché arrivavamo ad aver vinto a Siviglia e onestamente ci avevamo fatto un po' la bocca al proseguio, perciò, però nella pallacanestro questo ci potrà servire di monito sicuramente, perché se noi non abbiamo un approccio di intensità agonistica, la nostra squadra perde molto del suo potenziale, e noi effettivamente abbiamo avuto un approccio non agonistico contro una squadra che ha fatto effettivamente una grande partita. A proposito di intensità agonistica, domenica vi tocca una delle squadre forse sotto questo profilo più intense, quella Roma che insieme a voi forse è proprio la grande sorpresa del campionato. Che sfida si aspetta? Sicuramente hanno parlato all'inizio molto di noi e Varese per il nostro modo di giocare, per essere ai piani alti, però penso che Roma aveva già dimostrato prima di giocare una pallacanestro molto intensa e di giocarsi delle partite anche con squadre come Siena, in cui era stato sotto, molto, molto intensa. Sicuramente è stata l'unica che ha battuto Varese, è una squadra che fa dell'agonismo, della fisicità la loro forza ed è sicuramente una bella novità, perciò è la dimostrazione che poi quando poi si gioca con intensità e agonismo si riescono magari anche a ribaltare un po' di valori tecnici dati all'inizio del campionato. Parole che tornano buone anche per il suo spogliatoio, coach. Avviso ai cugini Diner, mettetecela tutta pure in difesa, se no coach Sacchetti è pronto a tirare le orecchie. Beh, sicuramente noi sappiamo quali sono le caratteristiche dei nostri giocatori, che cosa sono più portati. È logico che nessuno pretende che sicuramente i nostri due giocatori siano dei mastini in difesa, ma sicuramente possiamo fare di più di quello che abbiamo fatto nelle brutte situazioni. Sappiamo che ci dobbiamo lavorare e non ci accontentiamo di questa situazione se vogliamo stare dove siamo adesso. Coach, grazie, in bocca al lupo. Arrivederci, buonasera. E allora grazie a coach Meo Sacchetti che ci ha detto, andate a vedere la Lega 2, ci ha fornito un prezioso assist per leggervi un po' di risultati. Allora, 11ª giornata anche in Lega 2, Ferentino capo d'Orlando 84-78, stop per Pozzecco, quindi Trieste Veroli 81-67, Trento Casale Monferrato 67-70. Barcellona Pistoia 76-59, Imola Forlì 69-77, Brescia Bologna 84-75, Verona Scafati 63-65, riposa Iesi. Allora, proprio di Lega 2 e del fatto che ci sia una squadra che riposa per la come sapete l'esclusione di Napoli, parliamo col nostro Carmelo Prestisimone proprio da Napoli. Perché Carmelo, ben trovato, perché domani potrebbe arrivare la sentenza definitiva del TNAS sull'esclusione dei partenopei dal campionato di Lega 2, vero? Buonasera. Esatto, Dario, buonasera, ben trovati. E proprio come dici tu, domani potrebbe essere il giorno giusto, tanto atteso dalla tifoseria napoletana, per conoscere il destino del nuovo Napoli Basket, questo nuovo club che quest'anno ha partecipato alla Lega 2 ed è stato escluso in ottobre dalla federazione per un bonifico che praticamente non è mai arrivato e che riguarda la prima rata di iscrizione. Il nuovo Napoli Basket doveva versare 33.000 euro, in realtà c'è stato un bonifico fasullo della proprietà che corrispondeva alla cifra imbarazzante e consentimi di dire anche ridicola di 3 euro, che ovviamente non è stato visto sicuramente di buon occhio dalla federazione, che ha immediatamente escluso la squadra napoletana. E domani al TNAS, allo Stadio Olimpico, alle 14.30 ci sarà questa udienza, l'udienza che riguarda la riammissione in Lega 2 nella categoria del nuovo Napoli Basket, dove naturalmente saranno ascoltati gli avvocati del club napoletano, l'avvocato Allegro, l'avvocato Tobia, ci sarà anche l'avvocato Gregis che viene a nome appunto della nuova proprietà, di quella che sarà la nuova proprietà. Il presidente sarà Maurizio Balbi, questo professionista napoletano che vive e lavora a Bergamo. E quindi insomma ci sarà questa udienza dove naturalmente si conoscerà il destino del nuovo Napoli Basket. Ti dico, Dario, aggiungo che praticamente sono stati bravissimi quelli del club napoletano, perché hanno preparato tutto. Martedì ci sarà l'allenamento, insomma c'è grande ottimismo ovviamente, martedì ci sarà l'allenamento al Palabarbuto. La rosa è praticamente completa, perché c'è Ubalek, c'è Allegretti, c'è Metreveli, c'è Casini, c'è Ceron. Sono andati via solo i due americani, Clemente a Pesaro, portoricano, sì, sì, e l'altro americano Warren, che è andato via. Saranno molto probabilmente ingaggiati Crispin e Dupré, già visti in Italia, sì, quindi sì, sì. È tutto pronto per aspettarsi naturalmente una decisione positiva sulla riammissione. Bene, grazie Carmelo Prestisimone. Ovviamente l'appuntamento è a domani per vedere come andrà a finire questa vicenda. E allora andiamo subito a Biella, dove c'è il nostro ulteriore ospite, Luca Chiabotti, prima firma della Gazzetta dello Sport. Ben trovato, Luca. Ciao a tutti, buonasera. Beh, Luca, diciamo anche un coach Sacchetti, che pure non ha seguito dal vivo la partita, grande festa del nostro basket, questo Star Game, ma non posso non chiederti un commento su questa vicenda di Napoli, perché è vero che siamo al piano di sotto, però sempre di storiaccia si tratta sotto canestro. Ma guarda, so che è brutto dirlo, perché conosco gli sforzi, la passione che stanno mettendo delle persone per salvare questa squadra, e siamo sempre lì. Le squadre in Italia non si salvano mai quando devono essere salvate, si salvano sempre tardi, si salvano sempre in modi curiosi, si salvano sempre al NAS, al TAR, e mai quando dovrebbero mostrare bilanci seri, proprietà serie, squadre e tutte queste cose. Per cui francamente, considerando che Napoli è la terza, la quarta volta che tenta di ripresentarsi e va sempre, quasi sempre male, e spesso in modo così, verrebbe da chiedersi se ne vale la pena di fare, certo, questa se le gambe non sono solide di questo percorso, esatto, tanto vale non intraprenderlo. Che cosa adesso? C'è un nuovo imprenditore. Spesso quando i nuovi imprenditori entrano nella pallacanestro, aprono delle scatole, trovano delle robe che non si aspettavano, scappano, si trovano in difficoltà. No, le cose vanno fatte, secondo me, non in tribunale, non coi ricorsi, vanno fatti nella stagione precedente per costruire quella successiva. E se al 30 di giugno di un anno non ci sono tutti i requisiti a posto per l'anno successivo, è giusto che le squadre non partecipino. Discorso che non fa una grinza. Parlando invece di quello che si è visto sul parquet di Biella, Luca, vedo un po' i tabellini: 18 punti per Melli, 18 per Alessandro Gentile, 17 per Stefano. Insomma, un'Italia che è sperimentale quanto la si vuole, chiaramente, in questa grande festa, però qualche individualità, qualcosina l'ha fatta vedere. Insomma, c'è dietro al gruppo di Pianigiani, o insieme a quel gruppo, un lavoro che quantomeno ci fa pensare a una rosa allargata su cui scegliere? Ma senz'altro, questo è un bel gruppo di ragazzi che si vogliono bene, che hanno già vinto come nucleo un argento under 20 solo due anni fa, che hanno qualità, talento, carattere, chiaramente hanno dei buchi in certi ruoli, anche se una delle note positive di oggi è stata la partita di Cervi, che è un 2-15, che ha preso 9 rimbalzi, ha fatto tanti punti, insomma 15 punti. Sì, 15, sì, quindi sì. C'è stata la storia molto bella di Stefano Gentile, che è il più vecchio e il meno talentuoso dei due fratelli Gentile, che però è venuto qui debuttante in nazionale come rincalzo e ha vinto il titolo di miglior giocatore e ha tenuto in squadra la squadra in mano proprio nell'unico momento, diciamo, di partita vera, quando gli stranieri dal meno 20 del primo tempo hanno cominciato a giocare, hanno pareggiato, e lì si è giocata una partita vera, e lì i nostri ragazzi sono stati bravi. Devo dire che sì, il gruppo allargato c'è, non sono così d'accordo che in questo gruppo allargato stasera la federazione non abbia presentato almeno quei 2-3 giocatori come Ache, Datome, Aradori, che per età saranno quelli che prenderanno questi ragazzi e li porteranno agli europei, non questi ma quelli dopo. Però alla fine la festa è venuta bene, siamo tutti contenti, abbiamo visto delle cose veramente positive e divertenti. Bene, allora siamo pronti per rituffarci, rigenerati da questo Star Game, nel campionato a partire dal prossimo fine settimana, perché lo ricordo, neanche Pallaspicchi fa la pausa, come del resto il campionato di basket, in campo il 23, il 30, il 6 gennaio. Grazie a Luca Chiabotti, in diretta per noi da Biella. Grazie, arrivederci. Grazie Luca. Allora, una brevissima pausa per il traffico, poi ancora insieme qui a Pallaspicchi. Pallaspicchi. Eccoci qua ancora insieme, Palla Spicchi, seconda parte del programma. Beh, pulciamoli un attimo i tabellini di questo Back All-Star Game di Biella. Per quanto riguarda le stelle americane, 17 punti per Antoine Barbour di Pesaro in 15 minuti, 2 su 2 da 2 punti, 4 su 8 da 3, poi 10 punti per Donnell Taylor e poi in realtà 9 punti per Gibson, il bomber del campionato di Brindisi, e poi chiaramente punti distribuiti in modo quasi scientifico, perché insomma minutaggio e punteggio chiaramente distribuiti soprattutto con l'obiettivo di divertirsi tutti e di non farsi male. Per gli azzurri anche 13 punti di Moraschini e 9 di De Nicolao, mentre come ci ricordava Luca Chiabotti, il promettente Cervi di Reggio Emilia, il nostro potenziale pivottone, ne ha messi dentro 15 con 9 rimbalzi e un ottimo 7 su 11 da 2 punti. Carlo Genta, ben trovato Carlo. Ciao Dario, buonasera a tutti. Allora, sempre una bella festa questa dello Star Game, anche se poi insomma per il basket vero dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, cioè la giornata di campionato, no? Per il basket vero ripassare anche dal punto di vista degli esordi, dei nuovi azzurri eccetera, sono partite così. Noi non siamo un popolo dallo Star Game, facciamo festa un po' in periodo di quaresima, visto che due delle nostre tre hanno già salutato l'Eurolega, la terza non ha mandato grandi impressioni. E non sembra un grande anno, anzi certamente non è un grande anno per le nostre in Eurolega, ovviamente campionato ancora da decifrare. Applausi a chi è in testa, a cominciare da Varese per continuare con Sassari, Dario. Eh sì, oggi poi abbiamo fatto l'en plein qui ai nostri microfoni, prima Frank Vitucci, poi Meo Sacchetti, abbiamo fatto un po' il check-up alle due formazioni leader del campionato. Guarda un po' se poteva mancare, Carlo, una domanda su Milano, no? Dopo il KO in Eurolega ci apprestiamo un'altra settimana di passione in casa Olimpia con dei cambi annunciati nel roster, probabile, quasi certo direi, il ritorno di J.R. Bremer, futuribile diciamo anche qui quello di Radosevic, anche se più complesso, insomma, da qui alla sfida con Varese, che Milano ti aspetti? Beh, insomma, innanzitutto mi viene in mente il fatto che si poteva anche pensare prima di non lasciarli andare via. Eh sì, è la squadra dell'anno scorso. Appunto, si poteva anche pensare prima di non lasciarli andare via, soprattutto Radosevic, che molto giovane, aveva comunque fatto buone cose, però anche Bremer comunque era uno che dava leadership. Milano, come al solito, in questo periodo ricomincia un po' da capo, anche questo per loro non è un gran segnale, vedi parecchi giocatori fuori condizione o fuori squadra o comunque con grande calo di fiducia, il primo che mi viene in mente è Fozzis, quindi insomma una Milano che andrà rivista, adesso ha un obiettivo solo, potrà lavorare soltanto su quello, non avrà più viaggi e trasferte in Eurolega, io dico purtroppo, anche perché una squadra come Milano che resta fuori ancora una volta dal giro che conta è un peccato vero, però insomma non mi sembra che la situazione sia molto diversa rispetto agli ultimi anni, Dario. Sì, e poi questa mancanza dell'Eurolega è anche un limite da quel punto di vista, perché lo dicevamo anche con Giovanni Capuano, quando si gioca con i migliori, gioco forza si migliora a propria volta, e Milano quindi perde un'altra occasione, un altro giro. Grazie Carlo. A voi, ciao Dario. Ci ritroviamo presto. Flavio Tranquillo, buonasera. Ben trovato Flavio, chiudiamo con te e stavolta ti voglio un po' stuzzicare sul tema NBA, no? Perché questa volta il campionato ci concede qualche minuto in più. Ma senti, ma questi New York Knicks, a forza di elisir di lunga vita, stanno stupendo un po' tutti, Stanno stupendo moltissimo, stanno facendo una pallacanestro molto bella da vedere, molto efficace. Sono nettamente il miglior attacco dell'NBA in questo momento, perché aggiungono a un sistema che funziona un solista che funziona più di tutti gli altri e riescono a fondere le due cose, che non è facile. Non sono la miglior difesa della Lega, però difendono con uno spirito di squadra, con una voglia di stare assieme, che sicuramente è frutto anche, non solo, ma anche del lavoro dell'allenatore. Eh sì, coach Woodson a questo punto candidato numero uno al titolo di allenatore dell'anno, anche se la stagione è ancora parecchio lunga. Beh, ma quando torna Stoudemire, quel pallone come riusciamo a moltiplicarlo almeno per due? Quando torna Stoudemire il problema del pallone secondo me è limitato, anche perché io non credo che Woodson possa giocare molti minuti con Anthony, Stoudemire e Chandler, perché sarebbe la negazione di quello che gli ha regalato questo inizio folgorante, ovvero sia Anthony da 4 con i conseguenti discorsi sulle spaziature che arrivano. Bisogna vedere Stoudemire. Se Stoudemire si dovesse mai adattare e giocasse tutti i minuti che non gioca Tyson Chandler, in cui la difesa ci perderebbe tantissimo, ma l'attacco non perderebbe niente, anzi guadagnerebbe qualche cosa, e potesse eventualmente pensare che per la modica cifra di 100 milioni di dollari è meglio comunque giocare 20 per una squadra che vince il titolo che 30 che per uno che non lo vince, allora poi si farebbe molto interessante per New York. Io non ci credo, ma si farebbe interessante. Insomma, vediamo se è disposto a tirare un po' la cinghia, dai. Ho visto qualche palleggio di Prigioni, un gran professore, come rookie non è male come scelta. Ma sai, il discorso è che tu prendi un rookie di 35 anni in una squadra in cui praticamente è un bambino, visto che ci sono la Ciduola, Sikor Thomas, Camby, Kidd e compagnia, ma scherzi a parte, prendi un giocatore di quel tipo, in una pallacanestro di quel tipo, fatta di pick and roll, di spaziature e di perimetro, abituato a giocare su un campo europeo che è molto molto più stretto per chi gioca questa pallacanestro, perché non ci sono i 3 secondi difensivi, e abituato a giocare 35 minuti e ne fai giocare 15. Caspita, è una qualità ovviamente notevole. Sta in paradiso il buon Pablo, che vale la pena ricordarlo, tante volte è stato accostato a Milano, ma a questa latitudine non l'abbiamo mai visto. Un'altra squadra che mi piace parecchio, su cui voglio sapere il tuo parere, è Minnesota. Pekovic, Kirilenko, Love, mi sembra che c'è un bel mix tra esperienza e futuro in quel roster, finalmente, perché poi aspettando poi Rubio al 100%. La squadra più intrigante dell'NBA, la squadra più lunga per qualità media di tutta l'NBA, se non ci fosse la questione Love, ovvero sia Love resta o non resta, sarà un refrain che andrà avanti da qui a, credo, un paio di stagioni comode. Se non ci fosse quella questione, penserei che è una squadra che può veramente fare delle grandi cose, perché o trova al proprio interno la maniera di diventare una squadra da titolo, o è la squadra che più di chiunque altro può prenderne 3 e farli diventare uno che sposta tanto. Senti, bel record anche per Golden State, un'altra sorpresa. Confesso che i Warriors li ho seguiti poco, aiutaci un po' a capire da cosa nasce questo record ben oltre il 50%, che a Ovest è sempre risultato degno di nota. Sì, decisamente. Beh, intanto una filosofia chiara, hanno preso un allenatore, non si sono fatti smontare dai risultati cattivi della passata stagione, gli hanno dato molto molto spazio, un allenatore di grande carisma, che sa parlare ai giocatori, che conosce l'NBA, che ha credibilità perché con la palla in mano, avendo un fisico del tutto normale, era un giocatore straordinario come Mark Jackson. Il basket si giocava ai tempi di Mark Jackson non c'è più, e il merito di Mark Jackson è giocare quello di oggi. Quindi giocare con Curry e Klay Thompson insieme, nessuno dei due esattamente un playmaker, nessuno dei due esattamente una guardia, tutti e due tirano alla grande, tutti e due giocano dal palleggio alla grande, e a quel punto se tu hai questo tipo di identità, lo dimostra New York, lo dimostra San Antonio, lo dimostra Miami, questo è il basket che paga in questo momento. Senti, ultimo minuto, dedicalo per favore ai miei Memphis Grizzlies. Lo confesso, nel giorno dello Star Game ho un debole per Zach Randolph, e che possiamo fare quest'anno? Ma a guardare le prime 15 partite, vincere l'NBA. E allora finiamola qua, dai. Nel senso che ci stava un co-MVP per Marc Gasol e Zach Randolph. Adesso la situazione è un po' meno brillante, al di là delle sconfitte, ma è proprio meno brillante per Gasol e Randolph fisicamente. È calato Conley, che è un altro che aveva cominciato in una maniera straordinaria, però questa è una squadra che è un diesel, avrà i suoi alti, avrà i suoi bassi, però devi fare i conti. Vincere NBA non credo, sarei onestamente stupito. però è il classico tipo di squadra che mai e poi mai vorrei incontrare al primo turno. Beh, allora ci divertiremo fino alla fine, ecco, questo è sicuro. Grazie Flavio, ci troviamo domenica, riparliamo di campionato e di partite giocate. Molto volentieri. Grazie a Flavio Tranquillo, grazie anche a Giorgio De Luca in redazione, a Carmelo Lauricella in regia per Parla Spicchi di oggi. È tutto, intanto il Bologna è andato in vantaggio a Napoli, caro Giorgio De Luca, forza e coraggio, è ancora lunga. Adesso vi racconto tutto a partire dal prossimo GR. Un saluto da Dario Ricci.